Allora, un altro, diciamo, un altro anniversario. Pronto? Pronto, ci senti? E dunque, due anni fa la rivolta di Gioia Tauro, e oggi si torna a Gioia Tauro, nella piana dove ci fu la rivolta dei raccoglitori di aranci, mandarini e clementine. Le vicende da allora ad oggi sono state varie e molteplici. Oggi si torna in quella piana e facciamocelo raccontare da chi sta oggi manifestando. Pronto, ciao. Pronto, buongiorno a tutti. E tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Indalotta, mi sentite? Perché io sento che la voce non viene. Sì, ti sentiamo anche se un po' gracchiante, però si sente il... Ok. Sì, purtroppo è una giornata bella ma ventosa, quindi questo è un inconveniente magari al telefono. Siamo qui con varie realtà del territorio, Africa, Libria, Donne e Uomini Senza Frontiere per la Fraternità, e il nome che abbiamo dato a questo percorso che da mesi va avanti e riunisce varie istanze del territorio, associative, sociali, anche sindacali, e gli braccianti africani che quest'anno, più dell'anno scorso, sono presenti nella piana di Gioia Tauro, soprattutto tra Rosarno e i paesi vicini. È una giornata di ricomposizione sociale, di ricomposizione di classe, andiamo a dire noi. Questo è il senso che diamo, diamo oggi alla giornata e in generale ai percorsi che abbiamo avviato su questo territorio. Oggi qui siamo su un terreno che dovrebbe ospitare un mega rigassificatore. Siamo qui insieme al comitato di San Ferdinando contro il rigassificatore, insieme ai portuali di Gioia Tauro, al coordinamento portuali Sul, gli autonomi che da anni conducono battaglie al porto e adesso lottano contro i licenziamenti, 1600 circa in due anni, per la strategia della depressiva della multinazionale che lo gestisce, ovviamente a proprio uso e consumo. Siamo qui con le organizzazioni che praticano la solidarietà con i braccianti e con i braccianti stessi, con le organizzazioni anche dei contadini che praticano percorsi di sostenibilità. Siamo qui sostanzialmente nel segno della riappropriazione e della solidarietà di classe. Ovvero il ragionamento è che non ha senso, soprattutto in questo momento, non solo come in generale in tutta Italia, ma particolarmente in questo territorio già sottosviluppato, si fa sentire il documento, la risposta può essere solo articolare una efficace e concreta strategia di unità tra tutte le istanze sociali subalterne che si trovano su questo territorio. E questa è per noi la forma migliore di integrazione, quella che viene dalla lotta, dall'auto-organizzazione e dalla lotta. E allora siamo qui i cittadini contro lo territorio, insieme ai contadini che da questo scempio sono compromessi e soprattutto dalle politiche criminali della grande distribuzione organizzata, a fianco dei braccianti che da questi contadini qui presenti non vengono sfruttati perché sono produttori interni a percorsi come SOS Rosarno, Ingaggiami contro il lavoro nero, ma purtroppo vengono sfruttati invece selvaggiamente da altre realtà, tanto piccole quanto medie e grandi di questo territorio, perché se vendendo le clementine a 17 centesimi i piccoli produttori trovano negli africani, nei braccianti immigrati in generale, l'ultimo anello su cui far ricascare tutto il peso di questa catena di sfruttamento che finisce sui banchi dei supermercati. Ma mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo benissimo. Senti, ma ecco, ho visto, è una domanda, questa manifestazione poi riverberà anche su altre piazze? Qui a Roma, purtroppo, per esempio, il 13. Sì, sì. Sì, allora, io purtroppo ho sentito solo a sprazzi la domanda, provo a rispondere a intuito, è il vento che porta via il campo, credo. Questa giornata di oggi che si sta realizzando qui su questo terreno, questa occupazione simbolica, si colloca in un arco di iniziative per commemorare la rivolta di Rosarno, che iniziano oggi e finiscono il 21 e 22 di gennaio. Esatto. Il 13 saremo a Roma insieme a varie altre realtà, a partire dai centri sociali come la SNIA o l'Osservatorio Antirazzista Pigneto Prenestino, che e altre realtà in generale che hanno seguito a suo tempo il percorso dell'Assemblea dei lavoratori africani a Roma. Saremo a Roma per confrontarci con le istanze centrali del potere nazionale, con il Ministero degli Interni prima di tutto, perché crediamo che sia possibile in questo momento, attraverso le mobilitazioni, la lotta, chiedere dei cambiamenti nella politica, che nel quadro della Bossi-Fini, pacchetto sicurezza e via dicendo, sappiamo come gestisce le condizioni di vita giuridiche soprattutto degli immigrati presenti su questo territorio, e li sottopone a una condizione di ricattabilità che consente poi appunto il fatto di essere in questi territori. Oggi è la Calabria, ma domani può essere la Puglia, la Campania, piuttosto che lo stesso Nord. Persone o senza diritti o sottoposte alla ricattabilità senza un contratto di lavoro, di ricascare nel limbo dell'irregolarità. Ecco, questo è un nodo che non vogliamo eludere. Crediamo che vada affrontato, come ha detto a suo tempo in un'assemblea uno dei leader dello sciopero di quest'estate a Nardò, vada coniugato con la lotta economica, lo sciopero, quando è possibile realizzarlo, in generale con la lotta che come lavoratori conducono gli immigrati, e quello è anche una importante leva per la conquista di tutti i diritti, compresi quelli di cittadinanza. E saremo quindi da questo punto di vista, in questo modo, presenti a rappresentare queste varie realtà di auto-organizzazione e lotta il 13 di gennaio a Roma, a Piazza dell'Esquilino. Ci sarà un corteo, ci sarà un momento di mobilitazione. Il 14 in varie piazze d'Italia si affronterà il nodo della grande distribuzione organizzata, del circuito economico dell'espropriazione, dello sfruttamento, in cui si colloca appunto, come dicevo prima, ultimo anello della catena, lo sfruttamento dei braccianti immigrati. E con le campagne SOS Rosarno, che dall'anno scorso realizziamo, dando la possibilità ai piccoli produttori di questo territorio che si sono messi insieme di vendere attraverso i gruppi d'acquisto solidali a un prezzo sostenibile le arance biologiche, e quindi poter avere i margini per assumere regolarmente la manodopera, cosa che comunque queste persone già facevano prima. E un'altra campagna che si somma, Ingaggiami contro il lavoro nero, rivolta ad altri produttori non biologici, ad altri circuiti, per ampliare sempre questa, conquistare fasce di contadinato a questo percorso di lotta, di solidarietà e di sostenibilità, di alleanza sostanzialmente tra piccoli contadini e braccianti, perché uno sviluppo diverso in questo territorio consente una vita, un futuro a questi piccoli contadini, e di essere accolti e valorizzati non solo come braccia, ma proprio come persone, con una propria cultura, un proprio bagaglio da condividere a tutti gli immigrati. Ecco, in questo segno le arance di SOS Rosarno il 14 saranno a Roma, a Bologna, a Napoli, a Torino, in diverse città d'Italia, per protestare. Alcuni andranno proprio davanti ai supermercati e ai centri commerciali per protestare contro le politiche della grande distribuzione organizzata, protestare sia verbalmente sia di fatto, vendendo le arance sostenibili. Il 21 e il 22 la stessa cosa si farà in varie città d'Italia, Firenze, non so bene quali altre, anche qui in Calabria, con le arance di Ingaggiami contro il lavoro nero, che è un'altra dimensione di una campagna che già le brigate di solidarietà attiva da anni conducono nel Salentino a Nardò, e che ha preparato in buona parte lo sciopero di quest'estate, lo sciopero organizzato dai braccianti di quest'estate. Tutto questo nel quadro di una piattaforma vertenziale divisa in due, con le istanze dei braccianti immigrati da una parte, a partire ovviamente da quella più generale di una sanatoria generalizzata e di una messa in discussione della Bossi-Fini, però poi altre istanze più specifiche, come gli indici di congruità, ovvero il fatto che un produttore che produce un tot deve dimostrare di aver impiegato in modo commisurato la manodopera, piuttosto che vincolare gli aiuti all'agricoltura al fatto che si assuma regolarmente la manodopera, a fare le graduatorie presso i centri dell'impiego, oppure per quello che riguarda tutti i marchi di qualità del Made in Italy tanto declamato, a partire dai DOC, DOP, IGP, mettere tra i disciplinari di produzione anche quello della regolarità della manodopera, in modo che se un produttore viene scoperto a non assumere, decada anche il marchio di qualità che gli consente di vendere il prodotto. Dall'altra invece il sostegno è la lotta delle istanze contadine, quindi tanto per quello che riguarda le politiche nazionali quanto per quello che riguarda la PAC, una politica non più orientata come oggi alla speculazione, all'accaparramento di terre, al latifondo, al nuovo latifondo che si delinea, ma un sostegno alla piccola agricoltura contadina a partire da reali interventi infrastrutturali, non solo per la produzione ma anche per la vita nelle realtà interne rurali, la viabilità, i servizi e poi l'accesso alla distribuzione, poi le istanze di genuino clandestino perché non siano le stesse norme della comunità europea applicate ai grandi gruppi che vendono nei supermercati e a chi invece fa un mercato locale dei prodotti appunto genuini e verificabili dai consumatori. Insomma è una doppia istanza, quella contadina e quella bracciantile, che si porta avanti in questo percorso tanto nelle pratiche dei territori, nella solidarietà tra i territori, nella cassa di resistenza contadina e bracciantile che si è creata attraverso la vendita di arance, va a sostenere le varie mobilitazioni e in futuro, come già stato andato quest'estate, anche gli scioperi, quanto nel rapporto con le istituzioni o le controparti economiche contro la grande distribuzione, richieste precise, è una lotta che oggi si realizza a partire da oggi fino al 21 e continuerà più avanti nei vari momenti, scioperi dei braccianti piuttosto che manifestazioni, blocchi, occupazioni di terre, perché nell'ultima manovra è previsto una norma per la svendita dei terreni agricoli statali, dietro il velo dell'accesso alla terra si nasconde un'altra operazione di espropriazione gigantesca a tutto vantaggio dei grandi speculatori che noi vogliamo combattere per una nuova riforma agraria che ovviamente debba veramente consentire l'accesso alla terra ai piccoli contadini senza però consentire invece che questi diventino alienabili e che quindi quello che è un patrimonio pubblico oggi venga svenduto. Guarda, ti ringraziamo per questa sintesi, appunto delle iniziative e del calendario molto denso che ci sarà da oggi fino al 21-22 e anche appunto dei contenuti. Hai parlato di istanze bracciantili e contadine, la cosa interessante di queste iniziative è anche appunto poi come queste istanze siano poi collegate al territorio, come appunto per l'iniziativa di oggi, no? Che mi senti? Pronto? Sì, a tratti, però sono riuscito a seguire, credo. Appunto, dicevamo delle istanze contadine e bracciantili che sono però sostenute anche, infatti parlavi di solidarietà, da poi movimenti e anche altre organizzazioni che si occupano poi del territorio dove state appunto facendo la manifestazione oggi, in riferimento ad altre questioni comunque legate, no? Quindi l'inceneritore di Gioia Tauro, la centrale turbogas a Rizziconi, il rigassificatore di San Fernando. Sì. Se ti va di appunto farci un attimo una descrizione anche di quelle una breve descrizione di quelle loro lotte e come stanno partecipando oggi alla mobilitazione. Allora, ovviamente le compagne e compagni che fanno parte di realtà militanti di questo territorio hanno ciclicamente partecipato a tutte le lotte in difesa del territorio, tanto quelle contro l'inceneritore, il raddoppio dell'inceneritore, quanto quella più famosa No Ponte, sono qui presenti anche No Ponte oggi. Il centro sociale Cartella di Reggio Calabria soprattutto, quanto questa contro il rigassificatore. E il discorso qual è? Si è tanto parlato soprattutto negli anni passati nella voga che purtroppo è un po' scemata del patto del mutuo soccorso che dalla Val di Susa allo Stretto univa varie lotte territoriali, di questa etichetta movimenti per il no, la necessità di essere anche costruttivi, ecco, posto in questi termini dal nostro punto di vista è un po' un tranello quello di dover essere costruttivi. Noi preferiamo parlare di riappropriazione, cioè essere contro qualcosa, ma anche riconquistare, qualcuno dice, soprattutto per quello che riguarda i movimenti metropolitani, Occupy Everything, e in qualche modo anche per noi quello è una direttrice, Occupy nel senso di riappropriarsi, tanto che si tratti dei terreni dove siamo oggi. Oggi siamo su l'area industriale, a ridosso del porto di Gioia Tauro ci sono 3 aree industriali, pochissime industrie funzionanti. Oggi questa area ospiterà grandi parchi fotovoltaici, piuttosto che altri impianti. Il rigassificatore, per esempio, verrà realizzato o non verrà realizzato, e noi crediamo e speriamo di riuscire a non farlo realizzare. Comunque è nelle intenzioni di Iride Sorgenia, la holding di De Benedetti, per capirci, che tanto si vanta di realizzare, produrre energia dalle fonti rinnovabili, e invece viene qui a devastare un territorio. Devastando il territorio compromette il futuro del porto. Poi noi ci siamo interrogati la storia che ha prodotto questa realtà, il porto di Gioia Tauro, uno dei più grandi del territorio. È contraddittoria la cosa, ovviamente, anche perché nasce dal pacchetto Colombo, l'industrializzazione di Stato, le speculazioni connesse, ma oggi ci troviamo qui, questo porto c'è, migliaia di lavoratori sono impiegati e sono anche la nostra classe operaia, l'unica nostra classe operaia che in passato ha dato anche espresso anche momenti alti di consapevolezza e determinazione. Quando ci fu la protesta contro il raddoppio dell'inceneritore, l'80% dei portuali scioperò, sempre su iniziativa del coordinamento dei portuali. Oggi la multinazionale che detiene il monopolio, la MCT, di questa infrastruttura non vuole concedere parti della banchina, preferisce lasciarla in disuso, deprimere il porto, spostarsi su altri siti, magari nel Nord Africa dove il costo del lavoro è più basso, e con questa strategia che però mantiene le mani su questo pezzo del nostro territorio, mandare a casa nello stile di un Marchionne un po' estremizzato, anche perché qui realizza gli accordi di quel tipo con il consenso anche della CGIL, purtroppo, che ha firmato un accordo simile a quelli che vuole imporre Marchionne e che ha imposto Marchionne per la FIAT. Ecco, in questa situazione noi abbiamo i portuali qui con noi, perché la difesa del loro posto di lavoro non è solo una questione dell'operaio, è una questione di questo territorio, di quello che viene a mancare quando con tanti licenziamenti in un territorio come questo, e soprattutto della volontà di decidere gli operai, ma anche tutti i cittadini di questo pezzo che è il porto di Gioia Tauro, del nostro territorio e del suo futuro, così come dell'area industriale, in cui non vogliamo impianti come rigassificatore, ma il rilancio dell'agricoltura. Qui a ridosso ci sono molti agrumeti, il rilancio dell'agricoltura, che ovviamente deve venire nel segno non dell'agricoltura industriale, ma di un'agricoltura autosostenibile, autocentrata, e quindi a partire da questo l'istanza della integrazione e dell'accoglienza, non nel senso pietista, ma nel senso proprio di accogliere a braccia aperte le masse di immigrati che per questo territorio sono sangue fresco per vene veramente disidratate, inaridite, a partire dal fatto dell'emigrazione che ancora oggi resta un fenomeno di forte attualità, i giovani che qui se ne vanno. Il nostro modo di concepire la lotta territoriale è questo qui, non semplicemente una lotta ambientalista, ma una lotta sociale, una lotta che si intreccia con le stanze di classe dei vari settori popolari di questo territorio, e che si muove nel segno della riappropriazione e anche partecipazione alle decisioni su tutto, perché non è possibile qua che se fanno un impianto come si moltiplicano su questo territorio le centrali a biomassa, oppure gli impianti a terra del fotovoltaico, che ogni comune sia chiamato a decidere per sé senza un progetto di pianificazione territoriale partecipato che sia realizzato congiuntamente dalle popolazioni di tutta la piana. Sono 33 comuni, un'area molto vasta, che a parte quella che va prospiciente il mare con il porto si estende fino alla una fascia preaspromontana, quindi collinare. Ecco, questo è il nostro modo di ricollocare la lotta territoriale in questo quadro generale di solidarietà e unità, cercando uno spartiacque proprio di classe, individuando momento per momento le nostre controparti o politiche o economiche, tanto a partire dai grandi gruppi, che sia la Sorgenia o sia la COP, quanto da quei gruppi di potentati locali che di questi costituiscono la cerniera per l'espropriazione del territorio, quindi tanti commercianti che mediano tra la grande distribuzione e i piccoli contadini locali, quanto le aziende che o i politici o in generale l'imprenditoria locale che si lega a quella nazionale per speculare sui cantieri, sugli investimenti legati ai certificati verdi e quant'altro, incamerando denaro pubblico ma non lasciando niente sul territorio. Bene Arturo, un'ultima considerazione però così telegrafica, voi chiamate questa iniziativa Sulla Testa, vero? Ed è molto bello come significato, ricordando anche che l'hanno alzata la testa i lavoratori di Rosarno quando si rivoltarono. Ecco, la domanda è questa: c'è ancora genuina quella rabbia che li fece rivoltare allora e che oggi portate in questa lotta più organica e organizzata? Allora, quell'evento ha prodotto, se dobbiamo essere sinceri, molta paura, perché la rivolta, alla rivolta sono seguiti, come sapete tutti, i linciaggi da parte della popolazione locale, ovviamente in quel caso non per gli interessi, che la mafia non ha interessi nell'agricoltura sostanziali, però ha interesse a riaffermare sempre il monopolio della violenza, e quindi i linciaggi erano comunque coordinati e governati sulla piazza da elementi insomma noti del territorio. Ecco, a quei linciaggi è seguita la deportazione, gente messa su autobus e portata via da questo territorio solo per il colore della propria pelle. Ha lasciato una cicatrice, tanto su questo territorio quanto nella coscienza collettiva, nell'immaginario collettivo degli africani. L'anno scorso ne sono venuti di meno anche per questo. E non vi nascondo che la paura è uno dei problemi con cui ci confrontiamo nel cercare di coinvolgerli. E quindi ovviamente la cosa è contraddittoria, l'esperienza dell'Assemblea dei lavoratori africani di Rosarno a Roma è stato un frutto di quell'episodio, un frutto luminoso, perché è un momento di auto-organizzazione molto alto. Oggi alcuni di questi africani sono tornati nella piana e ce li troviamo nelle riunioni, quindi è contraddittoria la cosa. Io credo che più che la rabbia, perché quella fu un'esplosione legittima, tanto più che in un territorio che non conosce da anni momenti di conflitto significativi, però purtroppo quello che ha lasciato non è una rabbia genuina che ancora cova, ma soprattutto paura per gli esiti che ha prodotto. Ma appunto è sempre un fenomeno contraddittorio. Lo sciopero di Nardò di quest'estate è stato un momento che almeno in parte ha prodotto per esempio la legge nazionale contro il caporalato. È un percorso, è un cammino. Oggi noi quello che diciamo è che il territorio deve in qualche modo, ricordando quel momento in cui gli africani hanno alzato la testa, alzare la testa tutti i lavoratori, le lavoratrici, i disoccupati, tutte le fasce indebolite di questo territorio, insieme agli africani, alzare tutti insieme la testa, e non c'è alternativa al conflitto, non c'è possibilità di compatibilizzazione, non c'è possibilità di, come in passato, accomodarsi dietro o sotto gli auspici di un potente locale che ti trova il posto di lavoro, la pensioncina o il favore. Ora non ci sono più questi margini, il clientelismo come l'abbiamo conosciuto è finito per sempre, e noi prendiamo la potenzialità di questa situazione, ispirandoci anche, se vogliamo, per esempio all'Argentina, dove in una situazione improvvisa di grave difficoltà si è sviluppata una propulsione sociale proprio collettiva di riappropriazione, diciamo a tutto il territorio e anche agli africani, insieme agli africani, perché alcune decine di loro sono parte integrante di Africa Labria, determinano al pari di noi compagni e compagne tutti i contenuti e le scelte, anche le tattiche, le strategie e le iniziative che si definiscono nelle riunioni. Africa Labre è un'associazione multietnica. Insieme africani e non africani, e speriamo in futuro anche bulgari, rumeni, diciamo a tutto il territorio di alzare la testa e esercitare quel conflitto che è l'unica alternativa all'emigrazione, alla disperazione, all'anomia sociale, alla disgregazione, alla morte sostanzialmente. È la lotta organizzata. Bene, Arturo, ci vediamo allora il 13 a Roma, chiaramente, per continuare questa manifestazione. Ti ringraziamo, buona lotta e buona, grazie a voi. Buon lavoro, ciao. Grazie, ciao.